Natale, pranzi e cenoni. Le feste succede che siano difficili. Ecco perché bisognerebbe alleggerirle, trovare aiuto. Triste Natale, amaro Natale. I resti dovrebbero essere buoni, dolci e calorosi ricordi. Buono, dolce, calore. Eccoci. E se scegliessi un moto negativo, estremamente negativo, per poi tornare su in contrasto con un'alternativa. Delizia e candore, qualcosa di promettente, l'opportunità di portare a casa un po' di buon caldo tepore. Ricordi natalizi. Jingle bell, campane, renne e neve. Giotolia! Caldi e deliziosi ricordi. Dai scemo, su scemo, su scemo, dice zio. Scemo, dice lo zio. Sempre mettere un nome proprio. Su scemo, dice zio Giorgio. E nonna ride. Le delizie dei ricordi hanno il sapore. Che imbecille, si esclama zio Mario. E zia Vittoria ride di te. Mangia le patate. Mangia la carne. Quale carne? Coniglio? Tacchino? Arrosto? Mangia! Mangia il polpettone. Mangia quel purè, dice mamma. Smetti di piangere. Mi fai venire da ridere. La voce di papà irrompe nella gioia familiare. Buono a nulla! Di un ricordo delizioso... Nulla è più buono, premiata rosticceria, il sapore dei ricordi. Le patate sanno di ferro. Quel gommoso polpettone annega in una misera poltiglia verde che solo le tue lacrime riportano in vita. Babbeo, fai qualcosa della tua vita. L'anno prossimo per il Natale falli stare zitti. I pranzi pronti, premiata rosticceria. L'anno prossimo, per il Natale, falli tacere. Lo adoreranno. Buono questo. Musica, dolce e remota come il tema di Winnie the Pooh. Qualche campanella e voci soffici. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. I deliziosi della premiata rosticceria, buoni come ricordi.